uno pensa alle pizze, pensa di andare sul sicuro in tutta Italia, per non dire in quasi tutto il mondo, troverà dei nomi che sono dei prototipi di genere, cioè la capricciosa è sempre la capricciosa, quella ai funghi è quella ai funghi, la marinara sarà quella con le acciughe, perché la cultura gastronomica ha costruito dei tipi ben riconoscibili. A occhio e croce pensavo che anche per i panini, ormai diffusissimi da almeno 10-15 anni in tutti i bar e affollatissimi nel mezzogiorno di impiegati, etc., fosse più o meno così. In realtà le cose non stanno così, anzi, avendo fatto una piccola indagine del tutto personale, quindi assolutamente non significativa, ma per questo più interessante ancora forse, ho scoperto via via alcune cose. Allora, si può pensare che ci siano delle categorie riconoscibili in cui il nome fa riferimento a un contenuto certo, e questo certo vale per tutti i panini che, a seconda della cultura e della sciccheria del barista, si chiamano ortolano o vegetariano. Vegetariano è evidentemente più in e più moderno, ma sempre verdura e mozzarella ci si troverà dentro. Spesso compare un panino che si chiama cosacco, peraltro in genere ha soltanto dentro una vodka, una salsa che contenga vodka, e poi la labilità nominalistica del suddetto panino è affidata assolutamente al caso. Ci sono poi degli altri, diciamo, toponimi che sono abbastanza riconoscibili, ma comunque cominciano già a presentare dei problemi, e sono per esempio tutti quelli dove ci sono gli spinaci. Certo, Braccio di Ferro, Popeye, pensate di trovare gli spinaci, ma talora Braccio di Ferro non è solo Popeye, diventa un campione piuttosto che Tarzan, piuttosto che Gorilla. Anche lì c'erano gli spinaci, quindi diciamo che i nessi di senso cominciano a farsi piuttosto labili, incostanti e assolutamente soggettivi. Che Gorilla e Tarzan siano dei personaggi comunque forti e muscolosi, e che quindi attraverso tutta una serie di collegamenti si arrivi anche agli spinaci, che avendo fatto bene a Braccio di Ferro per estensione vanno bene anche agli altri, ok, si riesce a seguire. Poi ci sono tutta una serie di panini che a me fanno venire in mente un mondo da Sette Nanetti di Biancaneve, e fra l'altro sono parecchio buffi. Sono tutta una serie dei panini che si chiamano campagnolo, piuttosto che montanaro, piuttosto che contadino, boscaiolo o rustico. Ora, questi panini hanno in comune sostanzialmente una cosa: hanno dentro i funghetti, o comunque frittate. Bene, sono dei nomi che fra l'altro evocano così dei mangiari robusti, no? Dei personaggi un po' muscolosi, belli cicciotti, no? Rubizi, rubicondi. Che questi nomi siano dati a dei panini che in genere vengono mangiati pallidi e pallide impiegate di città, che evidentemente non fanno dei gran lavori con le mani o con il corpo, per cui hanno bisogno di grandissime calorie, a me fa un po' ridere. Ma ancora, il perché di questi nomi e di questi abbinamenti, anche se con una certa fatica, si può ancora ritrovare. Poi c'è un'altra serie di panini, e anche qua, i nomi sono dati a caso, lo stesso nome non è mai ritrovabile con lo stesso contenuto, come invece succede per le pizze. Sono i nomi di tipo regionale, locale o nazionale. In un panino che si chiama milanese o meneghino, beh, certo, penseremo di trovare la cotoletta. Ma come ce la mettiamo in un panino che si chiama mediterraneo? Penserete, come ho pensato forse io, a mozzarella pomodoro. No, signore, in quel caso c'era pancetta pomodoro maionese insalata. Boh, la pancetta mediterranea. In un panino che si chiama tedesco, beh, insomma, è possibile, è comprensibile che ci siano i Würstel, i Krauti e la senape, ma nel Vienna, provato in un altro bar, perché la melanzana con il brie, che dannazione, se è qualcosa al limite è francese e non austriaco? Come si vede già qua, la deriva nominalistica, no? La fluttuazione del battesimo del panino è assolutamente casuale, saltuaria, soggettiva, non ripercorribile. Ma poi c'è anche un panino internazionale, quello mi aveva fatto sobbalzare, pensavo chissà quali reminiscenze veterocomuniste o staliniste, ma che lì c'è la bresaola, il brie, il limone, l'olio e il pepe, chissà perché internazionale. E il tricolore? Che colore? Mi aspettavo almeno i tre colori, un verde, un rosso, un bianco, tanto per essere banali, ma riconoscibili, identificabili. In quel caso c'era salame, la fontina e pomodoro, quindi due colori. Dopodiché si entra in una specie di selva oscura, dantesca, dove ogni cosa fa a sé. Quello che è abbastanza chiaro è che ci sono alcuni ingredienti, in particolar modo, che danno esca, scatenano, battezzano i battesimi dei vari panini. Questi ingredienti che scatenano dei battesimi particolari sono, da una parte, i funghetti che abbiamo già visto, e dall'altra un ingrediente che peraltro esiste da 20 anni nei nostri supermercati e costa anche abbastanza poche lire, ma che deve fare un effetto di un esotismo pazzesco a chi lo inserisce, che è la salsa rosa, anche detta salsa cocktail. Orbene, questo ingrediente inevitabilmente attira ai panini in cui va a diventare ingrediente dei nomi che evidentemente hanno in comune soltanto il fatto che devono sembrare stranieri, esterofili, diciamo esotici per essere chiari. In un caso era Manhattan, prosciutto crudo, brie, salsa cocktail, chissà perché a Manhattan, non so se Woody Allen ne è responsabile, carioca, prosciutto crudo, brie, salsa rosa, quindi identici ingredienti, però qui finiamo in Brasile, dove ovviamente, facendo un caldo della Madonna, è giusto che si usino le salse, i prosciutti crudi. E poi, se no, diventa anche Giamaica, ancora più stravagante che nella Giamaica ci sia la salsa rosa e il prosciutto. Qui l'unica cosa che posso dedurre è che questi nomi così fanno vacanza, fanno strano, fanno luoghi diversi e quindi fanno salsa rosa. Ma la salsa rosa, la salsa rosa dà anche nome a un panino che mi ha molto inquietato. Ultimo tango, prosciutto cotto, brie e salsa rosa. Ma perché ultimo tango? Cosa c'entra il povero Bertolucci? Secondo me è solo la liquidità della salsa rosa che ha fatto pensare ad altre sottigliezze. Dopodiché però finiamo in un groviglio di nomi, tutti di genere, dalle elementari a Giulio Verne e quando si va alla grande a Topolino e alla settimana enigmistica. Corsaro, peraltro, non ha nulla di marino, bresaola, mozzarella, pomodoro, maionese. Tip Tap, Praga, mozzarella. Pluto, cotto, fontina, insalata di tonno. Attila, cotto, insalata a gamberetti, salsa rosa, ma perché i gamberetti? Attila, che viene dalle pianure, ma... Winner, il vincitore, peraltro in inglese, forse una deriva degli anni 80 craxiani, ma chi lo sa mai. Giotto, arrosto di vitello, funghi e maionese, forse perché l'arrosto preconfezionato è rotondo come la O di Giotto, ma va tu a saperlo. Archimede, speck, brie, patè di olive, ma io penso per la lampadina, avrà pensato il barista, guarda che ideona che mi è venuta, e gli ha dato nome di Archimede. Robespierre, insalata di tonno, cocktail, gamberetti, pomodoro, ma cosa ha fatto di male il povero Robespierre? L'ho chiesto a quel barista, perché si chiama Robespierre? Pensavo al nome francese, a questo accostamento, i gamberetti fanno lo stesso effetto della salsa cocktail, li fanno strano, fanno diverso, fanno in. No, era perché un suo amico si chiama Roberto, l'amico che l'aveva inventato, Roberto Robespierre, l'assonanza è alla totale deriva. I nostri nomi si sono scollegati dai contenuti. E poi ci sono Sirius Line, ma perché Sirius Line crude mozzarella? E meteorite, manzo affumicato, caprina e rucola? Scrigno, melanzana, cotto, mozzarella e via così, potrei andare avanti, ma non vado. Quello che si vede è che ci sono delle reminiscenze per cui, questo ve lo devo dire, zio Tom, mozzarella, pancetta, peperone, zio Tom, Stati Uniti d'America, negri d'America, uno pensa degli accostamenti, ma cosa c'entrano? Cosa c'entrano gli Stati Uniti con la mozzarella, che, insomma, se c'è un paese famoso per la produzione della mozzarella è l'Italia, non gli Stati Uniti d'America, e poi i neri, chissà mai. L'unico filo conduttore di tutte queste denominazioni, come minimo stravaganti, e iperrealistiche, quando non del tutto surreali, è questa cultura, anzi triturato di cultura, sminuzzato di cultura, berlusconiano mi verrebbe da dire, in cui appunto ci sono reminiscenze tutt'al più elementari, no? Giotto, Archimede, Giulio Verne, i Corsari, Marco Polo, lo zio Tom, molto infantili, Montanaro, Campagnolo, Tip Tap, Pluto, Braccio di Ferro e tutto sommato piuttosto idiote.